9 in punto. Sono le 9 e 10 minuti, ancora un buongiorno da Gigi Donnelly. Dunque parliamo di misure anticrisi, parliamo di strumenti per affrontare questo autunno che è ancora, come dire, deve arrivare, ma che già insomma minaccia preoccupazioni in termini di occupazione, in termini di accesso al credito alle piccole e medie imprese. Chi ascolta Focus Economia avrà sentito nelle settimane passate spesso il nostro Sebastiano Barisoni raccontare quanto sia complesso oggi avere credito, godere cioè di quel finanziamento che permette di attivare la macchina della impresa anche quando è molto piccola, anzi soprattutto quando è molto piccola e quando è addirittura individuale. Allora si torna a parlare di uno strumento che, come abbiamo detto nel lancio, nasce lontano e viene portato di fatto alla notorietà da economisti del secondo e del terzo mondo, il microcredito. Parliamo cioè di prestiti, di crediti di misura media di circa 6.000 euro, per darci un'idea di un bacino di erogazioni che oggi viaggia intorno ai 170 milioni di euro, ma che proprio in questa fase insomma cambia e addirittura potrebbe raddoppiare. Ma ne parliamo anche su due studi oggi dal meeting di Rimini. Il direttore di Radio 24 Gianfranco Fabi, che è in collegamento con alcuni ospiti che vi presento immediatamente: Giorgio Vittadini, presidente Fondazione per la Sussidiarietà. Buongiorno. Luigino, buongiorno, buongiorno a lei. Luigino Bruni, che è docente di economia politica all'Università di Milano Bicocca, che sarà con noi tra qualche momento, e anche Giorgio Fiorentini, che è direttore del Master in Management delle aziende cooperative e imprese sociali non profit della Bocconi. E qui in studio con me invece Elio Silva, collega giornalista del Sole 24 Ore, che per il lunedì ha curato il rapporto sul microcredito e ci aiuterà dunque a rispondere anche alle domande pratiche di chi si chiede come accedere a queste opportunità. E allora, buongiorno Elio. Naturalmente per gli ascoltatori, come di consueto, il numero verde 800 24 00 24 per le vostre domande, per i vostri commenti. E ora dunque a Rimini. Direttore, buongiorno. Buongiorno Gigi Donnelly, buongiorno agli ascoltatori, grazie mille, tu hai introdotto molto bene il tema di un autunno che si prospetta complesso per la coda, speriamo solo la coda, di una crisi economica che ha sconvolto i mercati finanziari prima e il sistema economico poi. Queste prospettive qui al meeting di Rimini, che quest'anno è giunto alla sua 30ª edizione, sono ovviamente presenti, se ne è cominciato a discutere ieri, si è discusso in un convegno su non profit, ieri è stata un'altra giornata, peraltro caratterizzata anche dall'intervento del ministro Frattini con le problematiche africane e le problematiche dell'immigrazione. Direi che è un meeting che conferma la tradizione di questi incontri aperti a 360 gradi che vogliono fare il punto alla ripresa autunnale, alla fine dell'estate, alla ripresa autunnale, fare il punto un po' sulla società, dove sta andando il mondo, con una logica di apertura, di grande apertura. Il tema di quest'anno è la conoscenza è sempre un avvenimento ed è una ricerca di un confronto aperto da parte di questo incontro, che è chiaramente organizzato da Comunione e Liberazione, quindi da una struttura, da un'organizzazione, da un movimento cattolico, da un movimento che ha delle profonde radici cattoliche, ma che si apre in questa occasione e anche in altre occasioni ovviamente, si apre a un confronto con la realtà, con una logica che è stata messa in evidenza anche nel messaggio del Papa, che è una logica di simpatia verso l'altro, qualunque cosa porti, e verso qualunque esperienza che può far crescere verso l'umanità. Ecco, io vorrei chiedere a Giorgio Vittadini se proprio questa esperienza di apertura e di confronto può essere anche una strada, la strada, il metro, diciamo, per affrontare i temi che Gigi Donnelly in apertura ha messo in luce, i temi concreti con cui si poi si devono confrontare le persone, le aziende, coloro che devono poi occuparsi dell'economia, della società. Giorgio Vittadini. E nel messaggio che ci ha mandato il Papa ha detto che non esiste conoscenza senza implicazione del soggetto. Un'applicazione economica, non esiste provvedimento economico senza guardare le forze in campo, le realtà sociali, economiche, i soggetti in atto. Ciò vuol dire che non esiste credito senza un dialogo con la realtà, e quello che è mancato negli ultimi anni. Occorre vedere che cosa c'è sul campo di vivo, e questo rilancia il ruolo, più che del microcredito, che è un particolare di questo, delle casse rurali, delle banche popolari, delle ex casse di risparmio, di tutto quel sistema bancario italiano che è legato a presenze ideali. Tanto onore a Yunus, al terzo mondo, ma francamente quel tipo di credito l'abbiamo inventato noi 100 anni fa e forse qualcuno non se n'è accorto. Un credito in cui ancora adesso le casse di risparmio hanno come punto centrale non consigli di amministrazione, ma quelli che chiamano comitati di beneficenza. Senza questa implicazione ideale in cui dialogo col soggetto in atto, capisco cosa funziona e cosa no, senza questo uso delle tecniche che però è fatto da una realtà che ha questa concezione, non si fa credito, e questo è il problema. Il microcredito è un particolare di questo, perché arriva a intervenire su situazioni di bisogno, su piccole realtà, ma io dico anche che anche un certo medio credito dovrebbe essere fatto come sempre è stato fatto, col direttore di banca che ragiona con la realtà, con l'associazione di categoria che aiuta questo tipo di intervento, con i consorzi di garanzia eccetera. Questo è il ritorno dopo l'orgia finanziaria, perché devono esserci le grandi banche internazionali, ma ci devono essere banche anche sul territorio che permettono questo sviluppo di famiglie e imprese. Ecco, Giorgio Vitalini, nei prossimi giorni proprio al meeting ci sarà il governatore della Banca d'Italia, Draghi, ci sarà il ministro dell'economia Tremonti. Che cosa chiederete a queste due alte personalità del sistema economico e politico? Ma chiederemo esattamente questi termini. Il governatore della Banca d'Italia, che è già uscito negli ultimi tempi in questo tipo di intervento, se lui condivide questo riequilibrio del sistema bancario, che deve essere competitivo a livello internazionale ma deve avere anche queste banche sul territorio. È come una foresta che deve avere i grandi alberi ma anche il sottobosco, se no muoiono gli alberi. E secondo, il tema dell'educazione, dell'educazione anche all'imprenditoria, allo sviluppo, che è un suo tema cardine. A Tremonti di confermare questa linea degli ultimi tempi, che ci trova molto d'accordo, di una nuova attenzione al mondo delle piccole e medie imprese, come il rimando dei crediti, l'aiuto alle banche che intervengono a favore delle piccole e medie imprese, cioè al riprendere con coscienza che se noi non aiutiamo questo sistema diffuso di imprenditoria, che al di là delle sue dimensioni non andiamo al di là. Questo tipo di politica economica che per anni è stato dimenticato deve essere il punto fondamentale, questo chiederemo a Tremonti. Ecco, al meeting ci sarà anche forse in rappresentanza dell'opposizione, ma comunque un esponente come Pierluigi Bersani, che è in prima linea sul fronte economico, è stato anche ministro dell'industria. Qual è il significato di questa presenza di Bersani al meeting? Ma con Bersani ci lega una lunghissima amicizia che va ben al di là delle questioni economiche e politiche, tant'è vero che un anno ha presentato anche un libro di Giussani, però certamente c'è una forte sintonia sull'idea di economia in cui questi soggetti economici, sociali, dal mondo cooperativo al mondo associazionistico, a questo mondo della piccola e media impresa, ha la sua crucialità. Noi gli chiederemo anche se nel suo progetto politico, eventualmente fosse promosso segretario del PD, questo tipo di svolta c'è, è una svolta fondamentale, perché anche la sinistra negli ultimi anni ha manifestato ritorni allo statalismo, al burocratese, all'attacco a questo mondo, che in questo momento diventerebbe disastroso, siano che loro siano maggioranza, sia che loro non siano opposizione. Guardando in avanti, anche se ovviamente è il secondo giorno del meeting che non si possono fare bilanci, ma il clima sembra di un costruttivo ottimismo, Vitalini. Ma il costruttivo ottimismo sta sul rilancio del fatto, la conoscenza, un avvenimento del soggetto umano. Ieri è stata una cosa dell'altro mondo, perché c'erano insieme a Frattini e Mario Mauro e al ministro svedese due capi di Stato di paesi africani, due primi ministri, ministri degli esteri, che discutevano di come la possibilità di pace e sviluppo, non in termini diciamo sognanti, ma in termini di una possibile rilancio della cooperazione. Questo secondo me è un segno. C'era il vicepresidente del Paraguay che parlava di reducciones e di rilancio dell'economia. Questo è un piccolo segno di una possibile alternativa alla politica dei cannoni o dello sfruttamento, che non porta, diciamo, ai renismi, ma porta nel segno anche delle encicliche a un mercato che è governato dall'uomo e in cui la politica fa una funzione di regolatrice e di punto di sviluppo, qualcosa di più equilibrato delle ideologie degli anni scorsi. Questo è il punto positivo. Quando l'uomo torna al centro si può tirare la cinghia per un certo periodo, ma si sa dove si fa andare e si finisce per credere in modo diciamo fideistico a forze meccanicistiche che non ci libereranno mai in nessun campo dell'agire umano e della realtà. Grazie Vittadini, io vorrei passare a sentire sia il professor Fiorentini sia, se ci ha raggiunto, il professor Bruni sul tema proprio dell'impresa, l'impresa come può affrontare, con quali parametri può affrontare questo autunno. Giorgio Fiorentini è professore di economia delle imprese sociali non profit, quale può essere il ruolo del non profit, professor Fiorentini? Sì, grazie, buongiorno a tutti. Ma il ruolo di non profit e il ruolo delle imprese sociali è importante perché prima di tutto c'è un riconoscimento da parte di una normativa, ci sono due leggi ormai più dei decreti attuativi che dicono che esistono queste imprese sociali che possono essere anche società per azioni e società a responsabilità limitata senza distribuzione di utili. Questo è un attore nuovo, dico nuovo di due anni, tre anni. Però attenzione, non ancora peraltro conosciuto, cioè non è così scontato che il sistema riconosca questo tipo, questo attore. Inoltre in questa situazione di crisi c'è un grosso ruolo delle imprese sociali come imprese di salvataggio, chiamiamole saving company, cioè l'idea è questa, cioè che siccome queste imprese sociali, proprio la normativa lo dice, tali si definiscono anche se riescono a coinvolgere delle categorie o comunque delle persone svantaggiate, fra le persone svantaggiate ci sono i disoccupati, ahimè, poi qui dipende se uno è ottimista o pessimista, però il dato di fatto è che la crisi porterà evidentemente delle quote di disoccupazione e la cassa integrazione guadagni sta chiudendo, voglio dire, i suoi tempi per moltissimi di questi dipendenti. La proposta è molto diretta, il fatto cioè che si possa pensare a queste imprese sociali dove il capitale è composto e dalla non profit, ma è composto anche, voglio dire, da i comuni piuttosto che le imprese che sono in crisi. Questo è un fatto secondo me è molto importante, e in questa logica di microcredito di cui si parlava precedentemente, dove attenzione, il microcredito non può più essere un'elargizione, il microcredito deve essere qualche cosa che ti dà questa opportunità, voglio dire, di sviluppare un business che è continuativo e duraturo, altrimenti il rischio è che facciamo della beneficenza finanziaria che però sostanzialmente non è costruttiva per il futuro. Ecco, intanto saluto qui da studio il professor Luigi Nobruni che ci ha raggiunto, ancora benvenuto. Tra un momento cercheremo anche con Elio Silva proprio di capire alcuni elementi di accesso pratico, cioè come si fa, che cosa si chiede, dove ci si rivolge. Lo ricordiamo intanto, ancora buongiorno al professor Bruni che è docente di economia politica all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno. Intanto saluto anch'io i colleghi e grazie per questa opportunità di dialogare su tematiche importanti, cosa che accade raramente oggi nei media, dove sembra che le uniche imprese che esistano, le uniche banche importanti siano quelle, diciamo, tradizionali o che puntano ai profitti. In realtà l'economia italiana, e non solo, è un mare con tanti pesci, è popolata di tante forme di impresa, tutte coessenziali, quindi sono contento che ci siano ogni tanto queste occasioni, grazie anche al direttore Fabi che è molto sensibile a queste tematiche. Grazie professor Bruni, se mi consente, sì. Vorrei chiedere proprio, lei è stato uno tra gli ispiratori, anche tra i consulenti dell'ultima enciclica del Papa, la Caritas in Veritate, ed è un'enciclica che fa un passo abbastanza significativo perché riconosce la validità del mercato. Riconosce la validità di un mercato che già l'enciclica precedente di Giovanni Paolo II, Centesimus Annus, aveva in un certo modo riabilitato, aveva messo tra i fatti positivi della convivenza umana. Ma con questa enciclica si fa un passo in avanti e si dice dice che il mercato comunque è positivo, ma va orientato al bene comune e deve avere in sé anche quegli elementi di gratuità e di dono che contraddistinguono l'economia, un'economia più sociale e più aperta. Ecco, può spiegarci, professor Bruni, questo passo? Beh, certo. Innanzitutto la Chiesa, il Papa, non può non riconoscere il mercato come un elemento positivo, non fosse altro perché il mercato è stato inventato dei cristiani, in particolare dei francescani e dei domenicani, inventato come, anche teoricamente, non solo come fatto, perché il mercato diciamo, nasce nel cuore della cristianità medievale e i primi teorici che lo hanno diciamo, reso un luogo umanamente degno e un luogo positivo dal punto di vista cristiano positivo sono stati diciamo dei grandi teologi e filosofi cristiani e i terziari francescani ad esempio sono stati, molti erano mercanti, quindi il mercato come lo conosciamo oggi, l'economia di mercato è uno dei frutti del mondo cristiano, ovviamente unito anche ad alcune linee, alcune realtà che venivano anche dal mondo ebraico ed altro, quindi è un'eredità importante che la Chiesa ha in qualche modo promosso, ha fatto suo, è nato dal suo cuore, quindi lo potevano riconoscere. Però nell'Enciclica, come lei giustamente diceva, c'è qualcos'altro, oltre a dire che il mercato non è in sé negativo, questo l'aveva già detto in realtà Paolo VI, era Paolo non progressio, ma tutta la dottrina sociale della Chiesa non è stata mai negativa nei confronti del mercato, è stata critica, lo è anche questa Enciclica, nei confronti di quello che possiamo chiamare il capitalismo in senso tecnico, cioè quando lo scopo dell'impresa e del sistema economico diventa il profitto. Allora, quando lo scopo, non un elemento, ma lo scopo, il motivo per cui l'imprenditore mette su un'azienda diventa il profitto e non un progetto sociale tra cui il profitto è uno dei tanti elementi, ma quando lo scopo di tutto il sistema economico diventa il profitto, allora qui la Chiesa è critica e scettica, perché se è così, se accade questo e quando accade questo, tutto diventa strumentale al profitto, quindi i rapporti umani, l'ambiente, le persone, tutto diventano un mezzo per massimizzare il profitto. E quindi, da questo punto di vista, questa Enciclica e la Chiesa dicono bene il mercato quando è un luogo di incontro tra persone, un luogo di libertà, un luogo di scelte, un luogo di rapporti orizzontali, non gerarchici, non più feudali, bene. Però il mercato è buono davvero quando fa del profitto un elemento, un vincolo, un segnale, ma non lo scopo dell'attività economica. E questo, posso dire un'ultima battuta, vale anche per le banche. Prima mi piaceva molto il discorso di Vittadini sulla tradizione italiana, europea, che ha inventato il microcredito ben prima di Yunus, in realtà l'hanno inventato i francescani con i Monti di Pietà nel 400, che sono le prime istituzioni di microcredito della storia. Quindi la banca, ad esempio, non può essere un soggetto speculativo che ha come scopo il profitto, perché quando accade questo, ovviamente abbiamo visto le conseguenze. La banca è un'istituzione civile che ha scopi molto più complessi di massimizzare il profitto e quindi il richiamo forte della Chiesa verso il sistema economico e verso il sistema bancario è dire bene il mercato purché il profitto sia un elemento fra i tanti e non divenga l'unico scopo dell'impresa, della in banca. In pratica uno strumento per valutare anche se l'impresa è efficiente come deve essere. È un segnale, mi piace molto questa definizione. Il profitto è un segnale, un indicatore di efficienza, perché ovviamente non è etico fare perdite. Quindi il profitto mi dice se il progetto funziona, se il progetto sta in piedi, se il progetto ha una sua utilità, se serve a qualcuno con ciò che faccio, i miei prodotti, le mie attività, i miei servizi. Ma non è il motivo, lo scopo dell'attività. Questo è molto importante, è una definizione che potrebbe sembrare un po' accademica, un po' scolastica. In realtà su queste cose si gioca buona parte della qualità delle nostre imprese, perché se l'imprenditore punta semplicemente al profitto e basta, l'unico scopo è il profitto, il rapporto di lavoro, il rapporto con l'ambiente, con tutti i cosiddetti stakeholder dell'impresa diventano, diciamo, delle scuse retorica per nascondere il vero obiettivo che è il profitto. Allora la Chiesa da questo punto di vista anche il pensiero di tanti economisti, non solo cattolici, economisti che potremmo chiamare civili o sociali, dire di oggi è il dire ben venga il mercato se è un luogo di incontro tra persone, il principio personalista, no? L'idea che il centro del sistema è la persona e non di profitto. Insomma, quel direttore di banca che ragiona con la società, come diceva prima Giorgio Vittadini, deve ritornare al centro e ascoltare, raccontare la società e sostenerla nei momenti complessi. Ora che sono le 9:29 minuti questa mattina, chi ci ascolta sente, lavoriamo di fatto su due studi tra Rimini e Milano. Tra un momento cercheremo allora di andare molto sul pratico, con Elio Silva. Vorrei chiedergli come si accede, quali sono questi strumenti del microcredito, anche capire magari che differenza c'è e qual è la differenza con un processo di indebitamento che proprio nei mesi scorsi è stato messo pesantemente sotto accusa. Insomma, che differenza c'è tra chiedere dei soldi al microcredito e fare invece una richiesta per finanziare dei consumi. E sono intanto le 9:32 minuti, ricordo l'800240024 per i nostri ascoltatori. Dunque, parliamo di fatto della società e di come la nostra società cerchi di adattarsi alle diverse fasi, ovviamente, e in questo caso alla crisi economica, finanziaria ed economica che, come diceva in apertura il direttore di Radio 24, insomma, si spera che sia la coda in questa fine estate e autunno. Intanto gli strumenti. Elio Silva, dicevamo, che cosa è esattamente il microcredito? Cosa si può chiedere? Che volume d'affari può in qualche modo attivare? E anche un elemento importante, secondo me, che differenza c'è tra l'indebitarsi e accedere invece al microcredito? Sì, diciamo che innanzitutto mi piace ricordare come gli ospiti del direttore Fabi, tutti indistintamente, abbiano sottolineato come al di là degli aspetti definitori stiamo parlando di crediti rivolti alla persona, alla bontà di progetti, di idee e anche quindi a una prospettiva di riscatto e non solo di crediti finalizzati a un business. Questo per dire che esistono modi diversi fondamentalmente di fare credito. C'è un credito basato sulle garanzie, il credito commerciale tradizionale, basato su un sistema di controlli, di rating, su parametri puramente economici e finanziari, e c'è un credito che invece, accanto a questi fattori che comunque devono esistere, considera la bontà del progetto, la capacità del soggetto di portarla avanti. Da questo punto di vista possiamo parlare di microcredito, però sono d'accordo che poi è un di cui rispetto a un mondo molto più ampio, dove c'è il credito cooperativo, dove ci sono le banche popolari, dove c'è tutta questa tradizione di credito legato al territorio che effettivamente nasce proprio in Italia, addirittura rimonta all'esperienza dei Monti di Pietà del tardo Medioevo. Indubitabile che negli ultimi 40 anni tuttavia l'accento è andato decisamente in direzione del credito commerciale ordinario, sia perché tutto sommato le prospettive di crescita nel nostro paese erano quelle che vedevano il fenomeno della povertà sempre più marginale, certo. Queste almeno erano le aspettative. E poi perché comunque c'è stato un processo di crescita molto forte del sistema bancario, abbiamo visto anche la nascita di grandi colossi su scala internazionale. Diciamo che complice la crisi che comincia pesantemente a fare sentire i propri effetti sull'economia reale, ora tutta una serie di segnali anche di natura strettamente finanziaria porta a indicare nel microcredito una valida alternativa. E dunque che cos'è? È fondamentalmente un'istruttoria, una apertura di credito, dove però accanto, ripeto, ai parametri puramente economici e finanziari si valuta la bontà di un'idea e quindi non necessariamente il fatto che a priori il soggetto sia per così dire bancabile. Si può trattare di soggetti che non hanno le condizioni per ottenere normalmente un prestito in banca, ma che tuttavia con l'ausilio di una rete di supporto, e qui entra in campo il non profit, che qui è importante la rete delle organizzazioni non governative, delle associazioni di volontariato, dei confidi, di tutte quelle strutture che sul territorio possono fare da garanzia e da istruttoria, tra virgolette, sociale, per consentire che il prestito venga erogato e poi per curarne. Infatti l'altra caratteristica forte di queste forme di finanziamento è l'accompagnamento, nel senso che sempre i beneficiari vengono seguiti nel processo di avanzamento della loro impresa, e dunque diciamo che con queste due caratteristiche i risultati finali, perlomeno stando a quello che è l'indice delle sofferenze finora manifestato, non sono affatto scoraggianti rispetto a quelle che sono le sofferenze, cioè i mancati rimborsi da parte del credito ordinario. Elio, facciamo un esempio: io voglio avviare un'attività, diciamo, di laboratorio artigianale, non sono bancabile, questa parola un po' inquietante, terrificante, però, sì. Sì. Quindi ho questo marchio, cosa faccio, dove vado, a chi mi rivolgo, quanto posso chiedere? Diciamo che i canali ormai sono molteplici, quindi tutta la rete, dalle banche di credito cooperativo alle istituzioni di microcredito, abbiamo in Italia anche da 10 anni una banca etica a questo vocata, abbiamo più recentemente Banca Prossima, che è un braccio operativo di Banca Intesa molto attivo in questo segmento, possono rivolgersi per portare le loro idee. Però è fondamentale, e sottolineo, il riferimento e l'aggancio anche ad organizzazioni con finalità umanitarie e non profit, come possono essere organizzazioni non governative oppure organizzazioni sul territorio per la promozione sociale, le quali svolgono una istruttoria, diciamo così, preliminare di tipo sociale per valutare l'impatto positivo che queste richieste possono avere. E qui il vero punto di svolta è stato negli ultimi mesi la discesa in campo diretta della CEI con questo prestito della speranza, che ha una garanzia molto forte. Ricordo che la sola Banca Intesa ha messo a disposizione una garanzia fino a 100 milioni di euro, e quindi le aspettative sono per i prossimi mesi di riuscire a erogarne ben oltre 180 milioni. Questo significa che, rivolgendosi agli sportelli diocesani, quindi alle Caritas o agli uffici delle diocesi, chi ha un'idea o che semplicemente un progetto di recupero lavorativo e ovviamente viva una situazione di difficoltà, perché ci sono, diciamo, delle condizioni di base, cioè avere famiglie numerose oppure avere perso il posto di lavoro oppure avere soggetti svantaggiati in famiglia. Ecco, a queste condizioni si può avviare un'istruttoria e poi, con l'ausilio di questi operatori, tra l'altro segnale anche volontari ex bancari o bancari che affiancano i diocesani in questa iniziativa, andare poi negli sportelli delle banche commerciali. 10.000 sportelli dell'ABI sono già pronti dal prossimo 1° settembre a ricevere le domande per ottenere questo finanziamento. Ecco, tra l'altro vi ricordo il Sole 24 Ore del lunedì, tutti i dettagli, le informazioni appunto nell'approfondimento curato da Elio Silva ed altri colleghi. Una domanda secca, ma esiste un'alternativa laica a questo accesso in Italia? Sì, sì, ne esistono. Anche in questo ampio servizio riportiamo esperienze di fondazioni, per esempio a sostegno dell'occupazione femminile, per esempio per il recupero. Ce ne sono. Assolutamente. Allora, ne parliamo tra un momento. Io voglio intanto citare un paio di messaggi. Vedo: sono impiegato di una maggiore banca italiana, lacci lacciuoli nelle concessioni credito, ingordigia su interessi e commissione. Ormai è umiliante lavorare in banca, dice un ascoltatore. Vi prego, come dire, di utilizzare l'800 24 00 24 per i vostri commenti, le vostre domande. Intanto ci ha raggiunto e sono felice che l'abbia fatto Mario Crosta, che è il direttore generale di Banca Etica. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, per lei una domanda specifica: l'accesso a questo tipo appunto di credito e microcredito è, come dire, è commensurato, è corrispondente al denaro che si richiede? Perché si parla invece di, tra i problemi dell'accesso al microcredito, di costi eccessivi. Il problema dei costi eccessivi è effettivamente una questione che deve essere affrontata, perché in molte circostanze ci si trova di fronte a situazioni residuali rispetto alla possibilità di accedere al credito. Allora il costo aggiuntivo deriva dall'opportunità, dalla possibilità di rendere questi soggetti bancabili. Allora È vero che in modo particolare anche noi abbiamo aderito come Banca Etica a quell'iniziativa della CEI. Si tratta appunto di trovare delle modalità di accompagnamento perché questi soggetti diventino bancabili, e questo motiva dei costi aggiuntivi, perché la nostra esperienza, l'esperienza come Banca Etica, ci dice che a volte già il fatto di ricordare quando ci si trova di fronte a fasce di povertà marginale, già ricordare che le rate hanno una scadenza e devono essere pagate, vediamo che comporta poi dei tassi di pagamento ben superiori anche alla media del pagamento degli altri crediti, nel senso che i poveri poi alla fine sono soggetti solvibili. Dottore, posso approfittare per domandarle sul costo dell'istruttoria sociale? Voi storicamente dite che i costi sono elevati e che occorre una riforma per semplificarli sostanzialmente. Mi sembra che ora l'intera ABI come associazione del sistema creditizio italiano sia scesa in campo. Secondo lei quanto conta il peso, diciamo, di questo accordo tra le banche per arrivare effettivamente a un processo di semplificazione dei costi a monte nella fase di istruttoria? Sì, io credo vadano fatti due ragionamenti. Allora, da un lato è sicuramente meritorio l'impegno che l'ABI sta mettendo proprio in questi ultimi mesi. Anche Banca Etica ha aderito a un tavolo tecnico per il microcredito e per il finanziamento all'impresa sociale, e che questi argomenti trovino casa in una sede istituzionale come l'ABI è sicuramente un'azione molto importante. Dall'altro lato noi apparteniamo poi anche ad una rete di realtà che si occupano di microcredito e di finanziamento all'impresa sociale a livello europeo. Cito il caso della Francia. Nel caso della Francia ci sono delle leggi nazionali che prevedono che il governo, l'ente pubblico, si faccia carico di una serie di costi necessari per l'avvio della pratica di microcredito. Allora, ecco, noi crediamo che sia sicuramente importante l'impegno da parte delle banche. Poi, per quanto riguarda anche il sostegno dei costi, debba esserci un ausilio forte da parte dell'ente pubblico. Peraltro, ecco, ci tengo anche a sottolineare che come Banca Etica abbiamo ormai un'esperienza di diversi anni nell'ambito del microcredito e distinguiamo due forme di microcredito. Da un lato il microcredito di natura sociale, ed è il caso ad esempio dell'iniziativa che è fatta congiuntamente tra ABI e CEI. Ma che è più vicino al prezzo della speranza. Esattamente, ma poi c'è anche, ci teniamo perché crediamo che questa sia una forma altrettanto importante di microcredito, del microcredito che va al sostegno dell'avvio di attività di microimpresa, che possono essere ad esempio un modo di privilegiare l'attività microimprenditoriale giovanile, ma anche poi fasce, veniva ricordato prima, anche il sostegno ad attività imprenditoriali delle donne, il sostegno a fasce che hanno particolare necessità di sostegno. Grazie a Mario Crosto, lo ricordo, direttore generale di Banca Etica. Rieccoci dunque per questa ultima parte di 9 in punto. Gli strumenti, ma anche la storia, il percorso, gli inventori, insomma, siamo risaliti fino al Medioevo, ma tant'è, sicuramente questi sono strumenti e possibilità che possono essere riprese e sottolineate, riprendendo anche, come abbiamo sentito, una tradizione che è del mondo cattolico, che è della tradizione socialista italiana, che come tale in realtà è una sorta di ritorno al futuro per molte iniziative. Come vi ho anticipato, allora torniamo a Rimini. Gianfranco Fabi, a te la linea. Eccoci, grazie mille Gigi Donelli, grazie anche per questa escursione nell'ambito appunto del microcredito, con queste realtà molto interessanti, molto significative a livello di una società che si sta muovendo, sta cercando anche delle formule nuove, a problemi indubbiamente nuovi, a problemi di una realtà sociale che ha appunto di fronte a sé delle difficoltà che bisogna risolvere, bisogna affrontare, cercando anche di mettere insieme delle strumentazioni tecniche con delle strumentazioni più di valore sociale, più cercando di andare un po' alla radice della persona. persone. Ecco, in questo io volevo appunto chiedere a Giorgio Vittadini, nella prospettiva anche di questi incontri, dei meeting, se questa rete di cui si è parlato, la rete necessaria per sostenere poi tutte le varie attività, si sta consolidando, se ci può essere questa alleanza tra profit e non profit, tra economia di mercato ed economia sociale, tra imprese che devono lavorare per la produzione e imprese che devono lavorare per i servizi, per l'assistenza delle persone. Allora, Giorgio Vittadini. Ma penso che ci possa essere, a patto che si sia creativi, cioè bisogna superare la dicotomia tra un'impostazione tecnica che dice queste sono le tecniche, un'impostazione umanistica che dice sì, però c'è una tradizione, noi dobbiamo trovare nuovi strumenti. Faccio un esempio, il Cofidi è uno strumento tradizionale, ma può essere una cosa di piccola e marginale dimensione, può essere pensato su grandi tipi di realtà. Altri tipi di banche che per esempio su certi interventi non solo non profit, ma di tipo anche economico, ma sociale, prevedono un ritorno all'investimento, ma non nel senso del massimo profitto, ma in termini di un ritorno medio, e poi vanno a misurare l'utilità sociale dell'intervento, sono altri tipi di interventi possibili. Una ricostruzione, questa idea di una banca del sud basata non sul grande intervento ma sulle grandi banche non profit, è un altro esempio. Noi dobbiamo inventare strumenti per questa nuova fase, non pensare che ci sia una, appunto, questa desiderio di essere utili e poi degli strumenti tecnici in cui inserire le cose. A queste condizioni si può andare avanti. Allora, da questo punto di vista, che un giornale come Il Sole dedichi questa attenzione a questi nuovi temi è fondamentale, perché io penso che dobbiamo fare ingegneria creativa bancaria e imprenditoriale per inventare queste cose. La tradizione italiana è in questo senso, ma deve coniugarsi con ciò che c'è di più moderno in questo campo. Anche Vittadini con un rapporto più costruttivo tra pubblico e privato, tra lo Stato e il mercato, con un terzo settore che può condizionare positivamente entrambi i fattori. Certo, perché qui è il problema di superamento delle ideologie. Oggi come oggi pensiamo al partenariato tra pubblico e privato, che è la grande tesi del grande studioso Salomon, proprio del non profit. Noi dobbiamo alleare queste realtà. I nostri problemi economici non si risolvono con un mercato che sente lo Stato semplicemente come un intruso o da uno Stato che cerca di intervenire. Occorre usare una gamma di strumenti e, per esempio, una realtà come il meeting di Rimini, dove tanta gente viene a parlare e fa proposte di diverso tipo, è un laboratorio per pensare a questo arcobaleno di strumenti, sia Stato, sia privato, sia profit, sia non profit, sia accademia, sia impresa. Dobbiamo costruire una soluzione nella tradizione italiana che nasce da questo rapporto, da questa conoscenza con la realtà. La conoscenza è un avvenimento. Grazie, questo è appunto lo slogan, il titolo, il motivo conduttore di questo meeting di Rimini, che appunto prosegue in questi giorni. Io volevo chiedere al professor Fiorentini rapidamente se a livello di strumenti legislativi, di strumenti operativi, siamo diciamo sulla strada giusta. Professor Fiorentini. Strumenti legislativi, abbiamo già detto, esistono, perché c'è questo nuovo soggetto che si chiama impresa sociale. Vorrei anche però aggiungere che questo incontro fra profit e non profit si potrà avere con questa idea e proposta di cui stiamo studiando, della social stock exchange, cioè vuol dire pensare sostanzialmente, stiamo valutando questo fatto, che esista un terzo mercato azionario dove le imprese possano emettere, voglio dire, delle azioni che saranno valutate sul loro valore, il loro valore aziendale di forma imprenditoriale e il loro valore di tipo sociale. Questa non è una cosa, voglio dire, una cosa sì, innovativa, ma nel contempo in altri paesi già esiste, e questo sarà il modo per poter avere, per esempio negli Stati Uniti, queste low profit liability company, che consiste nel fatto di avere delle imprese che possono avere come redditività massima il 4-5%, ma nel contempo devono avere gli obiettivi, dei risultati di tipo sociale. Questa è una proposta molto, molto concreta. Portare in borsa la società certamente è una sfida abbastanza forte, abbastanza importante in una fase come questa. Io, se il professor Bruni è ancora in linea, vorrei chiedergli se possiamo considerare questa crisi come un'opportunità per riflettere molto più approfonditamente sulla realtà dell'economia. Professor Bruni. Sì, grazie. Io credo proprio di sì. Sono convinto che questa crisi che abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo, perché basta pensare ai dati sulla disoccupazione per capire che siamo ancora dentro, almeno nell'economia reale, può essere un'opportunità per riflettere su alcune cose importanti. A me sta molto a cuore il tema dei rapporti interpersonali e il tema dei beni relazionali, cioè riportare al centro dell'economia le persone, i rapporti e non primariamente gli strumenti e appunto, come dicevo prima, l'ottimizzazione dei profitti. Sono una battuta sul tema del non profit e del for profit. Io credo che questa distinzione, che è tutta anglosassone, in Italia e direi in Europa non ha mai attecchito fino in fondo, perché l'idea che l'impresa sia per il profitto o non per il profitto è una categoria lontana dall'umanesimo civile e dall'umanesimo cristiano che è tipico dell'Europa. Cioè, l'idea che sia il profitto o for o non è fortemente fuorviante. Basta pensare che questa visione impedisce di capire da anni che cosa siano le cooperative, che cosa sia in realtà una cooperativa sociale, ma una cooperativa tradizionale, che non è né for né non il profit, ma è semplicemente un modo diverso di concepire l'economia, che è un luogo per produrre insieme ricchezza, che è molto più del profitto. Quindi noi dobbiamo liberarci da queste camicie di forza teoriche, che poi diventano anche molto concrete, molto pratiche, ed essere, come dicevo, i cittadini, che condivido moltissimo, creativi, non solo nella cultura anche, ma anche negli strumenti, anche nelle forme di impresa. Grazie professor Bruni, strumenti nuovi, ma soprattutto una grande volontà, una grande voglia di guardare il futuro con la fiducia che nasce appunto dalle capacità della persona. Io restituirei la linea a Gigi Donelli per la conclusione, a Reggio Silva ringraziandoli. Grazie dunque direttore, rieccoci in studio, le 9:53 minuti, abbiamo giusto il tempo di fare qualche considerazione finale. Abbiamo sentito alcuni elementi, insomma, come dire, importanti su cui riflettere, l'affascinante prospettiva di un social stock exchange, un luogo in cui effettivamente una, come dire, la personalità ritorna al centro e lo ripeto, credo che debba essere assolutamente fatto proprio da tutti gli elementi della cultura italiana, cattolica, non cattolica, perché è un elemento che abbiamo visto, insomma, era troppo assente nel passato. Allora, Elio, qualche riflessione conclusiva? Ma guarda, direi che i prossimi mesi sicuramente saranno un banco di prova, perché abbiamo visto, e anche il confronto di questa mattina ce l'ha confermato, che le volontà, le energie esistono e sono diffuse sul territorio. Tutto sommato esistono anche le risorse, perché questo è un paese che ha sempre capacità di mobilitarsi e sugli obiettivi anche sociali ha delle energie, ha delle capacità di ripresa veramente notevoli. C'è però anche un aspetto tecnico da affrontare, bisogna trovare strumenti nuovi, ecco, che sia una borsa, che siano altre strumentazioni, va discusso ovviamente. Il punto è che non si può più concepire questo segmento come mera erogazione di beneficenza, quindi non stiamo più parlando di filantropia, di donare qualcosa, ma dobbiamo pensare che a tutti gli effetti si tratta di creare le condizioni per il riscatto delle persone. Siamo per più vicini all'ingegneria sociale. Sì, come... sicuramente siamo più vicini a un concetto che poi, ripeto, non è nuovo, no. Si tratta di ripescare nel nostro archivio storico alcuni strumenti e alcune edizioni che appartengono al nostro DNA e con scientificità, ma con una scientificità che però riporta alla persona, non riporta unicamente all'aspetto economico-finanziario, creare le condizioni per un volano, perché poi come già molte case histories di successo ci dicono, spesso questi soggetti sono in grado non solo di realizzare se stessi e quindi rappresentano delle belle storie di riscatto personale, ma di creare a loro volta occupazione, quindi di, perché una anche delle condizioni perché questi finanziamenti siano davvero di successo è che siano poi reiterabili, cioè diventino dei casi di scuola sui quali altri possano costruire. E quindi con strumenti nuovi, con coraggio e con fantasia, vedremo se nei prossimi mesi, nei prossimi anni, riusciremo a dare un nuovo impulso anche sul territorio a queste piccole ma non secondarie forme di impresa. Grazie ad Elio Silva, e con lui ringraziandolo ricordo naturalmente Il Sole 24 Ore del lunedì, dove trovate dettagli, approfondimenti, storie, realtà di questa forma di appunto di economia sociale. Ringrazio i nostri ospiti, li ricordo: Giorgio Vittadini, professor Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, il professor Luigi Nobruni, docente di economia politica all'Università di Milano Bicocca, Giorgio Fiorentini, direttore del Master in Management delle aziende cooperative e imprese sociali non profit della Università Bocconi di Milano, come di consueto Alessandro Marco Tugli in assistenza, Peter Bescapè in regia. Siamo arrivati alla conclusione, subito dopo gli aggiornamenti con l'informazione, l'appuntamento, visto che siamo ancora in estate, Summer Time, a cura di Elisabetta Fiorito.